Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori da Deborah Rosciani e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi riapriamo la settimana parlando di un tema piuttosto importante, parliamo della casa. Domani, secondo il calendario già prefissato, dovrebbe andare al vaglio della commissione bicamerale sul federalismo il decreto sul federalismo municipale, con le novità che sono state predisposte appunto dal ministro Calderoli per andare incontro alle richieste di opposizione e sindaci. Obiettivo: votare il provvedimento già venerdì prossimo. I tecnici del governo sono al lavoro per introdurre tutta una serie di misure, la già stracontestatissima tassa di soggiorno sui turisti, la compartecipazione dei municipi all'IRPEF, la cedolare secca sugli affitti, con però due aliquote distinte, una per i canoni concordati, una per i canoni liberi. Il decreto introduce anche una stretta rigida sugli affitti in nero, della quale si parla già da diverso tempo, con una doppia sanzione per i proprietari che non dichiarano il canone di locazione percepito sui loro immobili. Insomma, sugli affitti non si scherza più, d'altronde c'è in ballo quasi 1 miliardo di euro di evasione fiscale. Allora noi oggi ci soffermiamo proprio su questo, facciamo il punto su tutte le novità in arrivo, delle quali peraltro si occupa ampiamente anche oggi il Sole 24 Ore. Pagina 3, il fisco cercherà gli evasori dentro casa, dagli affitti in nero ai finti comodati, con il decreto sul federalismo caccia ai redditi non dichiarati. I nostri ospiti di questa mattina, uno dei curatori della citata pagina del Sole di questa mattina, il collega Saverio Fossati del Sole. Saverio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie anche ad Alberto Zanni, presidente di Confabitare, che ci ha già aiutato in una precedente puntata a fare chiarezza sul tema che vi riproponiamo oggi. Presidente Zanni, buongiorno e naturalmente grazie di essere ritornato con noi. Grazie a voi, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Chiaramente microfoni aperti anche agli ascoltatori, che possono intervenire all'800 24 0024 oppure scriverci al 349 238 6666, questo è il numero per i vostri sms. Se volete scriverci qualcosa di più articolato avete l'opportunità di farlo all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La borsa questa mattina, vi dicevo già che oggi la borsa, dopo i rialzi della settimana scorsa, venerdì il mercato si è chiuso con il quarto rialzo consecutivo, oggi c'è un po' più di prudenza, gli indici sono leggermente negativi, vedo che però sta già cambiando l'aria a Londra, che in questo momento agguanta il territorio positivo e segna un più 0,04%, mentre Parigi è meno 0,15%, Francoforte è meno 0,09%, un po' più forte il calo di Milano, meno 0,35%. Oggi Wall Street sarà chiusa per il Martin Luther King Day, mentre l'Europa attende la riunione dell'Eurogruppo, che oggi dovrebbe definire qualcosa di più preciso relativamente al fondo di stabilità degli stati dell'Eurozona in difficoltà finanziaria. C'è, come sapete, appunto un po' di maretta, un po' di disaccordo fra i governi. Vedremo appunto oggi quale misura, quale decisione saprà prendere l'Eurogruppo a tale proposito. Mercato che peraltro oggi non si preoccupa più di tanto neanche della decisione che ha preso Fitch, l'agenzia di rating, venerdì scorso di declassare a spazzatura i titoli del debito greco. Settimana scorsa c'è stata una nuova asta dei titoli greci, i titoli sono andati a ruba, per cui effettivamente non si riesce bene a capire quale sia la percezione corretta del mercato rispetto alla solidità, alla solvibilità appunto dello Stato greco. Detto questo, oggi il mercato, dopo il referendum di Mirafiori, guarda ancora Fiat, con i titoli tutti al galoppo a Piazza Affari stamattina. Fiat Industrial più 2,25%, l'auto Fiat SPA più 1,31%, oggi va bene anche Finmeccanica più 1,90%. Per questo gruppo è arrivata una importante commessa dal Messico e quindi il titolo corre. Pirelli più 1,28%, Parmalat, avete sentito poco fa le notizie nel giornale radio sulle richieste del PM di Milano per le quattro banche straniere, appunto in qualche maniera riconosciute fra le protagoniste del dissesto di Parmalat di qualche anno fa. Il titolo però si disinteressa alle vicende giudiziarie, oggi corre, guadagna lo 0,83%, forse corre proprio per questo. Primo giorno di aumento di capitale per il Banco Popolare, il titolo perde 3 punti, domani ci occuperemo di questa operazione ritornando un po' su tutte le operazioni di natura straordinaria che riguardano Piazza Affari e che a volte colpiscono i piccoli azionisti che non non hanno una grande dimestichezza con queste operazioni, le conoscono poco e per cui se le ritrovano e non sanno bene come comportarsi, per cui domani parleremo di questa ma anche di altre. Mediaset meno 2,70, risente del giudizio negativo di Bank of America Merrill Lynch. Fondiaria meno 2, Ubibanca meno 1,75, Eni meno 1,36%, euro su dollaro 1,32,75. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, un tema di grande attualità. Aspettiamo appunto di vedere quale sarà il formato del decreto sul federalismo municipale. Si sa di certo che le misure interverranno pesantemente sul mercato degli affitti. Circola troppo nero in questo settore, lo sappiamo bene, si parla di 1 miliardo quasi di evasione fiscale complessivamente. In Italia vivono 4,7 milioni di famiglie appunto in affitto, e allora cerchiamo un po' di capire che cosa succederà soprattutto dal punto di vista della fiscalità e la nuova cedolare sul mercato degli affitti. Sentiamo. Cedolare secca del 20% per i contratti a canone concordato e del 23% per quelli a canone libero. La certezza dovrebbe arrivare domani, con la presentazione del nuovo testo alla Commissione bicamerale sul federalismo, ma dopo le varie ipotesi circolate nei mesi scorsi, si dovrebbe dunque arrivare a due soglie distinte. La cedolare secca è un'aliquota che si applicherà sui canoni di locazione, andando di fatto a sostituire l'attuale IRPEF, le addizionali e l'imposta di bollo e di registro. Il versamento è previsto con le stesse date della dichiarazione dei redditi e, secondo le prime stime, un proprietario con un reddito inferiore a 30.000 euro e che concede in locazione il suo immobile ad un canone di 10.000 euro l'anno vedrà ridursi la tassazione da 3.230 euro a 1.700 euro. La linea di confine è a 15.000 euro di reddito. Per chi ha un reddito complessivo inferiore, risulta meno conveniente rispetto al regime attuale. Al di sopra di tale cifra è invece preferibile la cedolare, con un vantaggio che cresce all'aumentare del reddito, visto il venir meno della progressività del prelievo. Per gli inquilini, invece, il risparmio sarà più contenuto e legato all'abolizione dell'imposta di registro a loro carico nel caso in cui si opti per il regime cedolare. 800 24 00 24, noto già i centralini di Salvadanaio di Radio 24 questa mattina affollati, quindi abbiamo di nuovo colto nel segno. D'altronde, insomma, il cambiamento previsto non è di poca entità. Vado subito al presidente di Confabitare, Alberto Zanni, perché sulla nuova formulazione della cedolare voi avevate scritto come associazione di proprietari immobiliari all'inizio di dicembre addirittura una lettera al presidente della Camera Gianfranco Fini. Presidente, con che tipo di considerazioni rispettivamente appunto le novità in arrivo? Beh, noi abbiamo mandato alcune osservazioni riguardo appunto questa proposta che era presente a dicembre e sulla cedolare secca. Innanzitutto non era chiaro, visto che il contribuente deve fare una scelta, se aderire alla cedolare secca o al regime IRPEF. Non era chiaro, e credo che questo non sia ancora tuttora, se questa scelta una volta fatta rimane confermata per tutti gli anni, quindi per tutti gli anni fiscali, oppure se uno può cambiare di volta in volta secondo anche della convenienza del tipo di reddito che ha, perché non è detto che per molti il reddito di un anno sia uguale a quello degli anni successivi. Mm-hmm. Un'altra cosa che non era chiara, e credo che ancora continui a non essere chiara, se applicare la scelta della cedolare secca nell'ipotesi che un proprietario abbia più appartamenti da affittare sia diciamo così una scelta complessiva, oppure se ognuno può scegliere a seconda dell'immobile, di dove è ubicato, certo, della convenienza, esatto, anche da questo punto di vista. Quindi decidere immobile per immobile o complessivamente in tutto il patrimonio. E poi c'era anche il discorso soprattutto di quando uno doveva effettuare questa scelta, perché nella vostra scheda di presentazione, che è stata sempre come al solito precisa e puntuale, dite giustamente che l'importo della cedolare secca va versata contestualmente a quando fai la dichiarazione dei redditi. Però non è chiaro quando uno fa la scelta. Certo. Perché se io faccio un contratto, ad esempio oggi, che siamo a gennaio, la dichiarazione dei redditi la faccio a maggio, la scelta della cedolare secca la faccio oggi o a maggio? Perché quello che è il mio reddito. Il mio reddito, poi considerando che stiamo parlando poi dei redditi di quest'altro anno da applicare su quest'anno, esatto, quella che è la definizione del mio reddito, io lo imparo bene nel momento in cui faccio la dichiarazione. Mm. Quindi bisogna capire se in sostanza si fa in fase di dichiarazione dei redditi nuda e cruda, oppure se all'atto di sottoscrizione del contatto, del contratto appunto con il possibile inquilino. Solo che anche qua nasce un problema, perché se io lo faccio oggi il contratto verso un'imposta di registro, se poi in sede di dichiarazione dei redditi opto per la cedolare secca, quell'imposta di registro che ho versato oggi e che in regime di cedolare secca non avrei dovuto versare, la posso recuperare o comunque va persa? Vabbè, comunque avete sollevato tutti questi problemi direttamente al Presidente della Camera, speriamo appunto che qualche parlamentare abbia fatto proprie queste considerazioni in modo da portarla appunto in fase di discussione successiva. Saverio Fossati, ti chiedo se oltre a queste che ha definito e ha elencato il Presidente di Confabitare ci sono ancora altri punti da chiarire. Ma chiaramente poi questo provvedimento avrà anche il suo percorso parlamentare, probabilmente lì ci saranno ulteriori aggiustamenti. No, sono queste essenzialmente le cose in ballo, però non me ne preoccuperei più di tanto, perché una parte di problemi possono essere risolti tranquillamente in sede di decreto ministeriale, anzi è probabile, a quanto mi risultava, che proprio nel provvedimento, nella parte di provvedimento sul federalismo concernente la cedolare secca, sarebbe stato inserito una norma per consentire al Ministero dell'Economia di agire con la dovuta duttilità per risolvere tutti questi nuovi problemi, perché in effetti c'è una sovrapposizione fra scadenza IRPEF, diciamo così, abitudini IRPEF e invece la tempistica dei contratti di locazione che è diversa, certo. Uno dovrebbe registrarlo entro 30 giorni dalla scadenza, ma queste cose secondo me sono problemi, è vero, però ecco, non mi facerei la testa prima di vedere che cosa dice la norma definitiva. La sostanza della norma, cioè quello che più conta, è già abbastanza chiaro, mi pare. E infatti rappresentare un deterrente insomma all'affitto in nero. Voi avete calcolato sul Sole, Saverio, questa mattina 500.000 affitti in nero nel nostro paese, a fronte di oltre 4 milioni e mezzo di famiglie appunto che vivono in affitto. Come si arriva a questa cifra? Come avete fatto a calcolarla? Allora, non è molto difficile. In realtà se noi sottraiamo i canoni che vengono dichiarati dalle persone fisiche nel modello unico del modello 730, cioè dai proprietari, il numero di locazioni. Il numero di locazioni a persone fisiche indicate nei bilanci, nelle dichiarazioni soprattutto, scusate, nelle dichiarazioni presentate dalle persone non fisiche, cioè società affini. E infine i canoni, i contratti di locazione stipulati dalle ex IACP, diciamo, dai comuni e dagli istituti previdenziari, arriviamo a coprire un totale di circa 4.200.000 locazioni. Siccome le famiglie che vivono in affitto, stando all'ultima relazione dell'Istat relativa al 2008, quella che è uscita adesso l'anno scorso, insomma l'ultima disponibile, ci sono 4.700.000 famiglie in affitto, e 500.000 è abbastanza matematico, che esatto, se non saranno mezzo milione saranno 400.000, saranno 600.000, ma la cifra è quella, insomma, esatto, è una 500.000 affitti in nero che ogni anno sottraggono al fisco 1 miliardo di euro. E allora, per chi volesse emergere da questa situazione non regolare, e quindi qui parlo sia di proprietari naturalmente, ma anche se anche ci fosse qualche inquilino che evidentemente volesse indurre il proprietario a mettere a posto la situazione, vi diremo come fare oggi 800 24 00 24, ma soprattutto che cosa rischiano anche i proprietari che invece non intendono affatto farlo se venissero pizzicati. A tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che oggi ritorna sui temi della casa, perché come vi abbiamo già spiegato domani la commissione bicamerale sul federalismo discute il decreto sul federalismo municipale e ci sono in vista numerosi provvedimenti legati appunto alla casa. Come sapete, ne abbiamo parlato tante volte, anche Oscar Giannino ne ha fatto tante volte oggetto delle sue trasmissioni anche di recente, soffermandosi in particolar modo sulla cedolare secca sugli affitti che arriva, ma anche sulla stretta per gli affitti in nero. Anche questa è una misura molto importante. Come si fa a pizzicare il proprietario che appunto dà una sua casa teoricamente in affitto, ma poi lo fa in nero, quindi insomma un affitto per modo di dire, visto che non ci versa le tasse sopra. E allora noi stamattina, tanti gli aspetti che dobbiamo esaminare rispetto alle novità che arriveranno, anche se come ci diceva in apertura Alberto Zanni, presidente di Confabitare, ancora tanti aspetti devono essere chiariti. E con noi questa mattina, oltre a Zanni, anche Saverio Fossati del Sole 24 Ore, che insieme a Gianni Trovati cura le pagine del Sole su questo argomento. Questa mattina il fisco cercherà gli evasori dentro casa. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, per capire meglio cosa sta cambiando. Allora direi di cominciare subito a sentirvi, iniziando da Daniele da Pavia, quindi linea 5. Filippo. Daniele, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho una domanda molto semplice a cui in parte avete già risposto. Mm-hmm. Trovandomi oggi a dover pagare praticamente l'imposta di registro per una casa che ho dato in affitto, mm-hmm, mi chiedevo se in ogni caso io ad oggi devo pagare, perché scade il 31 di gennaio, sì, e se successivamente con la cedolare secca questa tassa viene eliminata praticamente. Mm-hmm. Grazie Daniele. Allora Zanni mi pare che abbia risposto già prima e un po' l'ascoltatore effettivamente sintetizza di nuovo un po' tutti quei punti che vanno chiariti. Forse a lui conviene intanto un attimino aspettare, proprio non dico l'ultimo giorno, ma magari un paio di giorni prima della scadenza, per fare in modo che questo aspetto si chiarisca definitivamente. Però per chi opta per la cedolare secca in luogo del regime IRPEF, mi pare che la tassa di registro non debba più pagarla. Ho capito male? Sì, dunque la cedolare secca andrà a assorbire l'imposta di registro. Sì. Questo sicuramente, ecco, non sappiamo, a parte che lui non ha tempo fino al 31, ma direi fino al 30, perché sono 30 giorni, a meno, ecco, bisogna vedere la decorrenza del contratto, sì, però normalmente se il contratto è il 1 gennaio dovrebbe pagare entro il 30, comunque sì, a parte questo. Era per dire può aspettare fino all'ultimo giorno disponibile, insomma. Sì, ecco. Comunque diciamo, la cedolare secca si andrà ad assorbire, almeno nei comuni ad alta tensione abitativa, adesso escludiamo quelli ancora a non alta tensione abitativa, che passerà fino al 2014, ad assorbire l'imposta di registro. L'unica cosa è appunto vedere se una volta pagato l'imposta di registro e se il contribuente fa la setta della cedolare secca, se questa viene rimborsata, potrà recuperarlo meno. E quindi insomma, per non saperne leggere né scrivere, intanto è bene che Daniele faccia quello che deve fare. Ecco, infatti. Allora Saverio, c'è un altro aspetto che non c'entra molto con i temi che stiamo toccando questa mattina, cioè non c'entra molto, c'entra moltissimo per la verità, e che però forse non ho capito bene, ma non mi pare che nell'ambito dei provvedimenti presi dal decreto sul federalismo municipale sia un aspetto appunto toccato. Molti ascoltatori che ci ascoltano lamentano il fatto che tutta questa stretta riguarda particolarmente i proprietari e che non si sentono per nulla tutelati qualora conferissero i propri immobili ad inquilini che non pagano gli affitti. Non ti sto a dire quanti messaggi su questo stanno arrivando. Mi sbaglio o su questi punti effettivamente il decreto non prevede niente? Il decreto non prevede niente perché lo scopo del decreto è assicurare imposte ai comuni, non tutelare i proprietari, i quali non sono tutelati per la semplicissima ragione che la morosità, cioè il fatto di non pagare l'affitto, dà vita eventualmente alla possibile risoluzione anticipata del contratto. Ormai il 90% degli sfratti sono pronunciati non per finita locazione, come era un tempo, cioè l'inquilino che non se ne vuole andare pur pagando regolarmente l'affitto, ma per morosità, cioè l'inquilino non paga. E quindi si chiede lo sfratto. Normalmente non ci vuole moltissimo tempo, sempre che non si consideri tantissimo tempo un periodo fra i 6 mesi e un anno. È un anno, è certo. E nelle grandi città qualche volta può anche arrivare a un po' più tempo, però rispetto ai tempi biblici della finita locazione va già meglio. Recuperare ovviamente un credito da parte di un inquilino che non paga è molto difficile, perché queste morosità non sono fatte per malvagità, ma perché l'inquilino non ce la fa più, cioè sì, una parte delle non sempre, dipende non sempre. C'è dalle anche scelte che sbagliate del proprietario, che pensa di ritenersi un canone magari di 800 euro da un bilocale Topaia in periferia. È chiaro che in quel bilocale Topaia ci andrà un inquilino che guadagna, non so, 1200, 1300 euro, anche 1500, magari c'ha moglie e figlio a carico, e dove gli tira fuori 800 euro al mese per pagare l'affitto? Gli dice di sì, stipula il contratto, per un po' va avanti e con tutta la buona volontà possibile, ma dopo 6 mesi non ce la fa più. Normalmente lo scenario di queste nuove morosità in questi termini. Sì. Poi, questo forse è anche il motivo per cui è stata studiata allora questa cedolare secca al 23% per i canoni d'affitto definiti liberi, quel 3% in più, da quello che ho capito, andrebbe proprio a dare un vantaggio fiscale, per esempio per gli inquilini che hanno delle famiglie numerose, come detrazione? No, non confondiamoci, cioè il vantaggio del canone di concordato, cioè un canone più basso, è solo per il proprietario, non è per l'inquilino. Il proprietario fa un canone più basso, in cambio paga meno tasse. tanto che mentre un tempo il vantaggio era enorme, nel senso che sul canone concordato tu pagavi più o meno il 60%, mentre invece sul canone di mercato pagavi sull'85%, questa differenza con il cedolare secca si viene praticamente ad azzerare per una serie di ragioni che sono spiegate bene nel pezzo di oggi, ragioni proprio matematiche. Allora hanno deciso di differenziarla facendo pagare un pochino di più a quelli del canone di mercato, in modo da consentire a chi aveva il canone concordato di continuare a farlo. Nella sostanza però il canone concordato rimane vantaggioso solo quando è più o meno del 20% inferiore al canone di mercato, sì. Altrimenti il proprietario ci perde, certo. E quindi rimane sempre questo gap che ha afflitto in questi anni il decollo del canone concordato. Benissimo, allora andiamo ad altre domande di altri ascoltatori. Chi era in attesa da un po'? Ecco Carla da Padova, che pure sintetizza tantissimi quesiti che ci stanno arrivando al 349-238-6666, ma anche al numero verde. Carla, buona giornata. Sì, buongiorno Deborah. Io faccio una domanda che forse può sembrare banale, ma sinceramente non ho capito se il proprietario si intende anche la società. Esempio, una società che è una comandita semplice, una SAS, i soci poi vanno a versare l'IRPEF, quindi in questo caso sono i proprietari, certo. Anche se sotto forma di società. Allora rientrano e quindi non c'è più il discorso dell'imposta di registro e si pagano le annualità successive con i contratti registrati con l'ultima... sì, con l'ultima finanziaria che avevano fatto con la sinistra, che avevano istituito l'imposta di registro e quindi pagare annualmente questa tassa, oppure le società non rientrano in questa casistica di cedolare secca. Carla, ecco. La ringrazio perché si è fatta davvero portavoce di tanti ascoltatori che lo stesso chiedono delucidazioni su questo aspetto. Allora ritorno al presidente Alberto Zanni se vuole rispondere. Insomma, questa novità riguarda solo le locazioni abitative o anche come avete sentito appunto le aziende? No, dunque le novità è questa della cedolare secca riguarda solo e esclusivamente le locazioni abitative. E se poi i proprietari sono società, se sempre una locazione abitativa non cambia, purché comunque legata a locazioni abitative. Certo, Fossati, vuoi precisare altri aspetti su questo, ma mi sembra che sia... Sì, che un forte svantaggio diciamo per i proprietari è che la cedolare secca riguarda esclusivamente, da quanto sembra di capire dal testo attualmente in discussione, le locazioni di persone fisiche a persone fisiche. Quindi sono, per esempio, se una persona fisica ha un negozio e lo vuole affittare, su quella locazione non ci prende la cedolare secca, così come se una società vuole affittare a un privato una casa non ci prende la cedolare secca. Sono dei limiti che sono forse giustificati dal fatto che è molto generosa e tuttavia finiscono poi con limitare, finiranno col creare qualche ricerca di escamotage fiscali da parte di chi si trova in quelle situazioni. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Allora Filippo, se sei d'accordo, sento la domanda di Luca da Reggio Calabria e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, così gli rispondiamo dopo. Luca, buona giornata. Buongiorno. Gentilmente vorrei sapere la differenza tra cedolare secca che bisogna pagare e l'IRPEF sull'affitto. Sì, va bene, allora ribadiamo un po' proprio l'ABC del nuovo provvedimento. Luca, a tra pochissimo. Allora, Alberto Zanni, presidente di Confabitare, mi aiuta di nuovo a fare un po' l'ABC delle modalità di versamento. Qualora si optasse per la cedolare secca sull'affitto, il suo rapporto con la tassazione ordinaria, quindi l'IRPEF. Tra l'altro, se non ho capito male, qualora si optasse per la cedolare secca, questa al 20% per i canoni concordati, che salirebbe di 3 punti, al 23% per quelli liberi, sarà versata un po' come funziona con l'ICI, in acconto e in saldo, quindi a giugno e a novembre. Sì. Nella formulazione attuale poi. Esatto, sì. L'ultimo ascoltatore che abbiamo sentito chiedeva appunto la differenza tra la tassazione IRPEF e la cedolare secca. Beh, per semplificare, la tassazione IRPEF è l'attuale tassazione dove ogni contribuente paga le tasse in base allo scaglione ovviamente di appartenenza, e la tassazione sui contratti d'affitto prevede, per quello che riguarda l'IRPEF, uno sconto del 15% per i contratti a canone libero, e mentre questo diciamo questa agevolazione aumenta fino al 40,5% per i contratti a canone concordato. E, mentre la cedolare secca è una tassazione fissa, appunto dice il nome, del 20% se paghiamo appunto dei canoni concordati e l'ipotesi del 23% per i canoni liberi, dove appunto si paga una percentuale fissa su quelli che sono i redditi, mm-hmm, appunto, che il contribuente ha. Allora, ci sono molti ascoltatori che ci fanno alcuni esempi, Enzo e Giuliana, che adesso faccio intervenire, che ci spiegano effettivamente quanto reddito percepiscono dall'immobile affittato e chiedono appunto come si fa, anche questo è un aspetto che forse va implementato, di alcuni chiarimenti, si chiedono appunto come fare a valutare la convenienza economica dell'applicazione o della cedolare appunto del regime ordinario di tassazione, quindi magari attraverso i loro esempi cerchiamo un po' di chiarire anche questi punti che mi sembrano cruciali, determinanti. Enzo da Bergamo, buona giornata anche a lei, poi sento subito anche Giuliana e quindi rispondiamo ad entrambi. Enzo, buongiorno. Buongiorno, un esempio pratico. Sì. Io ho un reddito di 26.000 euro. Uh-huh. Ho l'affitto concordato, do in affitto degli inquilini, l'affitto concordato, e pagano in totale 6.000 euro all'anno. Uh-huh. Da questo cambiamento ci guadagno, ci perdo, devo fare qualcosa per cambiare il nostro contratto? Insomma, bisognerebbe appunto che con un esperto facesse qualche calcolo per capire effettivamente se le conviene più un regime o più un altro. Enzo, aspetti lì che ci metto anche Giuliana, così magari facciamo un paio di esempi. Giuliana, buongiorno. Buongiorno cara Deborah, senta, io la sento sempre e sono inesperta, però le vorrei porre questa domanda. Io ho dato in affitto un appartamento ad affitto libero, mm-hmm, e pago naturalmente l'IRPEF, ma se il mio reddito imponibile è di 16.884 euro, mm, devo optare per la cedolare secca del 23%, mm-hmm, oppure l'IRPEF come solitamente, certo, pago? E allora Giuliana, sì, intanto quello che le posso dire è che non è un devo fare una cosa piuttosto che l'altra, si devono fare dei calcoli, appunto valutare la convenienza economica. Sento entrambi gli esperti, comincio con Saverio Fossati. Allora, anche perché abbiamo due casi distinti di canone di affitto in concordato e in regime libero. Sì, allora nel primo caso sicuramente conviene, anche se non di moltissimo, il canone alla cedolare secca, perché comunque sia su 6.000 euro si pagano 1.200 euro con la cedolare secca, mm-hmm, anzi dimenticavo, non abbiamo chiarito se quello era un canone concordato o un canone di mercato. Il primo è un concordato. Ecco, il primo è un concordato, quindi allora se è un concordato pagherebbe 1.200 euro, sì, di cedolare secca, mentre invece col vecchio sistema paga ancora sensibilmente di meno, perché su 6.000 euro per 60,5% pagherebbe poco più di 1.000 euro alla fine, quindi gli conviene rimanere al regime nel sistema del regime libero. Idem per la persona che ha chiamato dopo, che ha un reddito molto basso, mm-hmm, e di conseguenza anche se ha un canone concordato sicuramente gli conviene rimanere dov'è. Se ha un canone libero. Se ha un libero supera diciamo di un pochino il famoso tetto dei 15.000 euro, quindi probabilmente anche se di poche decine di euro gli converrebbe passare alla cedolare. Allora, tra l'altro Presidente Zanni, Alberto Zanni, Presidente di Confabitare, adesso diamo anche qualche istruzione per poter avere tutte le informazioni utili, no, per scegliere un regime piuttosto che un altro. Voi siete a Bologna, ma magari dove facciamo andare le persone che sono un po' così in difficoltà sullo stabilire qual è il miglior regime per la propria situazione fiscale anche? Che suggerimenti possiamo dare ai nostri ascoltatori? Oltre che a scrivere a Salvadanaio, e io poi giro le domande a voi e voi mi rispondete, ma non è che possono scrivere tutti a noi ovviamente. Beh, diciamo sicuramente gli ascoltatori, i contribuenti avranno già dei collegamenti nelle proprie città con dei commercialisti, che li assistono, dei professionisti o delle associazioni e dei CAF, diciamo, dei patronati. Quindi in ogni città sono presenti queste figure, quindi ogni contribuente, ogni ascoltatore può sicuramente rivolgersi al proprio consulente. Sicuramente questi calcoli saranno fatti anche dal nostro sito, che è www.confabitare.it, dove verrà pubblicato fate un simulatore, una cosa del genere? Esatto, verrà pubblicata intanto la versione definitiva, una volta approvata, dell'impianto della cedolare secca, perché come diceva lei prima stiamo parlando ancora di qualcosa che non è definitivo, anche se ormai si sta intravedendo un po' come quella che sarà la struttura finale. e noi nel nostro sito metteremo anche un simulatore di calcolo in modo tale da aiutare i contribuenti a scegliere tra IRPEF e cedolare secca. Mm-hmm. Allora, e sì. Poi comunque nelle varie sedi delle associazioni, perché è vero, scusi, che noi siamo a Bologna, ma non siamo solo a Bologna, siamo presenti in tante altre città d'Italia. Ah, ecco qua. Quindi Confabitare può dare una mano ai proprietari anche in altre città d'Italia. Esatto, c'è Assocond e poi anche l'associazione, appunto, ci sono tante associazioni che rappresentano i proprietari di immobili, quindi fate magari una ricerca la vostra città. Allora, sentirei Francesco da Vicenza e poi, per concludere, prima della nostra pillola previdenziale, vorrei anche fare un piccolo ABC, poi magari questo argomento sarà oggetto di una trasmissione esclusivamente dedicata a questo tema, perché, come vi ricordavo prima, il decreto attuativo sul federalismo municipale, insieme alla cedolare secca sugli affitti della quale stiamo parlando, introduce anche una doppia sanzione per i proprietari che non dichiarano il canone di locazione percepito sui loro immobili. È un meccanismo non tanto complicato ma molto severo. Poi magari vi do proprio tre note su questo e rimandiamo ad una puntata esclusivamente su questo aspetto. Francesco da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per il suo lavoro. Grazie. Volevo chiedere, se uno dà in locazione una stanza in famiglia, come ci si regola? Infatti. Cioè, ho fatto un contratto? Sì, perché c'è tutto l'ambito, parliamo per esempio dei contratti di locazione per gli studenti universitari, no? Però insomma anche lì Saverio Fossati, Nero che gira, lo sa solo il Padre Eterno, mi verrebbe da dire. Saverio. Sì, in generale nei contratti con gli studenti accade poi che ci sia un solo intestatario di un contratto di locazione normale, che è, non so, il padre di uno di questi, e poi dentro ci mettono ovviamente 4-5 studenti, no? Ragazzi, un appartamento grande, il canone è magari di, non so, 1000 euro, però il canone ufficiale, ma il canone vero poi che ritrae il proprietario, è magari 2000 euro, 2500 euro. Ci sono anche quelli completamente in nero, d'accordo, però non in misura, credo, particolarmente percentualmente superiore a quella dei canoni di mercato per la prima abitazione, delle locazioni di mercato per la prima abitazione. Il problema è che molti magari cercano di darsi una parvenza di regolarità, dichiarando un canone che però è molto inferiore a quello effettivamente ritratto. Puoi stringere Saverio, che sono in chiusura? No, ho finito. Hai terminato, benissimo. Andiamo alle parole della previdenza. INPS, per saperne di più. Sta continuando la nostra collaborazione con l'Istituto di Previdenza Sociale, che vi spiega appunto le parole della previdenza. Il tema di oggi è il supplemento di pensione. Il pensionato che, pur percependo la pensione, torna a svolgere un'attività lavorativa versando altri contributi, può chiedere all'INPS che la pensione venga calcolata di nuovo in base alla nuova situazione contributiva, cioè che gli venga liquidato un supplemento di pensione. Il supplemento può essere chiesto a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Solo per una volta il supplemento si può chiedere dopo 2 soli anni, a condizione che l'interessato abbia superato l'età pensionabile. Non riusciamo a trattare il tema degli irriducibili del nero come proprietari, ma lo faremo presto, prestissimo, sempre magari con i nostri ospiti di questa mattina. Io ringrazio e saluto per essere stati con noi Saverio Fossati e Alberto Zanni, presidente di Confabitare. Ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippa Oreggi in assistenza tecnica. Noi ci sentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata. We'll be right back.